Va bene, proprio due parole, due, per introdurre questa inusuale puntata del cinema. Al bar chiediamo un po' di... Ecco, inusuale perché è la prima volta che dedichiamo delle proiezioni a qualcuno, è la prima volta che qualcuno ci viene a trovare apposta, sì, qualche regista è venuto qualche volta, in questa, però diciamo, e in più è proprio in un'inusitata combinazione di persone, devo dire, molto bella e affettuosa e affettiva. E, allora, questa proiezione si colloca all'interno di quelle iniziative che noi teniamo normalmente intorno al 31 di marzo per ricordare Primo Moroni, che è morto il 31 di marzo del 1998, 27 anni fa. E per una coincidenza, diciamo così, particolare, è proprio oggi il giorno, quindi faremo poi un brindisi dopo. Però è bello in questo caso ricordare Primo e pensare a Giorgio Bellini, a cui abbiamo dedicato la proiezione di questa sera e quella della prossima settimana, di cui dirò una parolina piccolissima dopo, che sono dei film documentari in cui lui appare e racconta dei pezzi di storia di questo paese, riflettevamo tra noi, in realtà a noi molto vicino, ma anche un po' sconosciuto per certi versi. E quindi è un'occasione per ricordarlo. Giorgio è morto il 30 novembre dell'anno scorso, del 2024, per ricordarlo e per mostrare... raccontare queste due storie che sono molto diverse tra loro. Questa qua è la storia della scomparsa di Bruno Breguet, lo vediamo adesso, quindi non vi anticipo niente. La prossima settimana, invece lunedì, ci sarà un film documentario che si chiama La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri, che è fatta da uno svizzero iracheno di nome Samir, che racconta l'immigrazione in Svizzera, soprattutto italiana ma non solo, negli anni 60 e 70, e su come questa ha, come si può dire, inciso sul tessuto di classe della Svizzera. E basta, io penso che la finiamo qua. Avevamo preso un accordo che vogliamo, come si può dire, mantenere, di una piccola telefonata con Oreste Scalzone, che voleva dire due parole in ricordo di Giorgio. Quindi adesso io vado su e lo chiamiamo, perché la tecnica che tra qua e l'Oltralpe ci possiamo permettere è questa. Allora adesso vado. Buonasera compagni e compagne, guardate, compagne, compagni, io parlerò pochissimo, per pochissimi minuti, e già mi sento un po' usurpatore, non so, un po' privilegiato, perché ho questa facoltà di parlare senza essere presente come si dovrebbe e si vorrebbe, e senza neanche essere visibile, perché le complicazioni tecniche sono tali che non possiamo, non sono riuscito per mia imperizia probabilmente a organizzare una connessione video. Ecco, voglio dire una cosa, parlerò pochissimo. Qualche giorno fa Tommaso Spazzali, il carissimo Tommaso, mi aveva detto: se vuoi poi puoi dire due parole anche tu. Ecco, io mi afferro a questa delimitazione che mi sembra più che giusta. Penso a Tommaso, a Robertino, a Totò, a Gianni, a Pietro, a Francesca, che sono le persone che conosco e conosco a fondo. Non conosco di persona Olmo, quindi posso solo fargli un augurio, diciamo, di che il suo film comporti chiarezza e non confusione. Ecco, volevo dire, io parlerò non dell'affare Bruno Breghe, perché l'affare Bruno Breghe non potrei dire delle cose di prima mano. È una storia tragica, collaterale ai movimenti, una storia sui generis, e di cui non ho contezza diretta e di prima mano. Parlerò dunque di Giorgio in questi pochissimi minuti, di Giorgio Bellini. Giorgio che mi sembra un esemplare di Homo Novus. Un Homo Novus perché è riuscito a mantenere una sua presenza, direi più che identità, una sua presenza attiva all'interno di tanti movimenti nel corso di, ma direi, quasi 50 anni. Giorgio mi viene in mente per associazione di idee, come si fa con i giochi di parole, un termine che non ho trovato in giro sbirciando in questi materiali preparatori, che è quello di shop steward. Giorgio, anche come uno shop steward di un sindacalismo sociale pensato come rivoluzionario, e direi, e qui se qualcuno sobbalza, con un taglio che potremmo definire anarco-leninista. Giorgio animatore non mi pare che abbia mai voluto essere capo, ma sempre è stato animatore. Tra l'influenza italiana dei primordi, questa chance che ha avuto da sedicenne, da diciassettenne, di essere cooptato dentro alcune riunioni di classe operaia, la rivista che è stata la fucina dell'operaismo, dell'operaismo dico italiano, non perché avesse un carattere nazionale, ma perché era nato e si era sviluppato lì. Tra quindi questa influenza italiana, la territorialità ticinese e la critica di essa che Giorgio fa, assieme alla critica del Partito Socialista Autonomo Ticinese, di cui dice senza infingimenti che gli sembra aver fatto più danni di quanto abbia potuto apportare ai movimenti sociali. E poi c'è Zurigo, trampolino verso la Germania, e trampolino anche verso la galera. Viene arrestato su richiesta di estradizione italiana e la cosa è talmente zoppa che non legittimata da prove di responsabilità dirette, talché la Confederazione Elvetica è condannata a risarcire per ingiusta detenzione. Poi arriva nel 94, adesso facciamo un balzo, la procuratrice generale Carla Del Ponte, questa visionaria della repressione, che, come dire, coltiva il sogno feroce di una spoliazione dei ceti subalterni, come funzione della giustizia di esercizio di questa spoliazione, e poco importa se c'è stata anche un'adesione di tanta parte di ceti subalterni a questo sistema. Non ho molto da aggiungere nei pochissimi minuti che mi sono assegnato, se non di dire che lungo tutto l'arco che va dagli anni 60, 60, fino a ieri, per così dire, Giorgio è stato una presenza non aggirabile nei territori della Confederazione Elvetica e non solo. E che quello che dice in sue interviste, credo anche nel film, ho visto nell'intervista data agli archivi storici che gli hanno dato la parola, che è una forma di riconoscimento della sua funzione, della sua continuità, ecco, viene fuori questo Giorgio presente sempre anche in modo altalenante. A volte presenza inaggirabile e in certi momenti figura critica, figura di un continuo ripensamento di quello che si sta facendo e di dove si va. Volevo dire solo queste poche cose, perché per il resto ci sarà il film, ci sarà Francesca, che comunque ha passato 38 anni come moglie, 38 mi sembra, di Giorgio, ci saranno anche altri che eventualmente vorranno intervenire. E quindi lascio qui la parola, forse deludendo un po' qualche attesa, ma tant'è. Un abbraccio e un augurio di una buona serata che serva a uscire con idee forse più chiare di quelle con cui si è entrati nello spazio del cinematografico di questa sera. Un abbraccio e un saluto, e aggiungo, anche se è uno stereotipo, a pugno chiuso. Allora, c'è in sala Francesca Solari e Olmo Cerri, la compagna di Giorgio e il regista del film, che non so se vogliono dire due parole ora oppure ci vediamo il film e poi ne parliamo dopo. Va bene così per tutti e due. La settimana prossima, lo dico perché tendo poi a perdermi e mi dimentico, ci sarà Samir, il regista del film, di quell'altro, della prossima settimana, in cui ci sarà sempre Giorgio che viene intervistato, appare, non so in che maniera. Pochissimo, però va bene. Basta, allora mi levo e mi siedo anch'io di là. Siamo tutti ambivalenti, abbiamo tutte e due facce, però mi sembra che qui uno sguardo dolce e qui mi sembra più freddo, più determinato. Quella di Bruno Breguet è una vicenda che solleva molti interrogativi sui quali voglio riflettere, ripercorrendo le tracce che ha lasciato dietro di sé. Le sue lettere, le intercettazioni, le schede e i rapporti di polizia, ma soprattutto il libro con le sue memorie dal carcere. Un caso che spinge al limite tutte le questioni legate all'etica della lotta politica, alla coerenza tra mezzi e fini e al senso profondo della parola giustizia. Una riflessione necessaria anche oggi, per chi si domanda quali siano i modi più adeguati per contestare lo stato di cose attuale. Questo è uno dei primi video che ho realizzato. Era il 2007 a Lugano, un'azione antimilitarista in occasione di una parata dell'esercito svizzero. Quando ho girato queste immagini, avevo più o meno l'età in cui Bruno Breguet è partito per sostenere la resistenza palestinese. Sentivo anch'io forte la domanda che lui si pone nel suo diario dal carcere. cosa posso fare per oppormi alle ingiustizie del mondo? Io, che vivevo in una società che non smetteva di sventolare principi astratti di uguaglianza e libertà, mi chiedevo quale contributo avrei potuto dare per realizzare sul serio questa uguaglianza e questa libertà, anche per un popolo, quello palestinese, al quale non sembrava nemmeno riconosciuto il diritto di esistere. Rischia di diventare un caso internazionale quello di Bruno Breguet. L'intera vicenda è avvolta nel mistero. Incarcerato anni fa in Israele per detenzione di esplosivo per aver sostenuto l'OLP, allora illegale, lo scomparso ha scontato anche in Francia 3 anni di detenzione per aver intrecciato legami con il terrorista internazionale Carlos. Breguet è cresciuto in Ticino, a pochi chilometri da casa mia. La sua è una storia fuori dall'ordinario. Eppure, fino a quando non mi è capitata fra le mani una copia del suo libro, di lui non avevo mai sentito parlare. Era sparito dalla memoria collettiva del nostro paese, così come nel 95 era improvvisamente scomparso da un traghetto in viaggio verso la Grecia. Che fine ha fatto Bruno Breguet? Poche certezze, tante ipotesi, moltissimi punti di domanda. Bruno Breguet è scomparso. Una risposta più precisa la sta cercando anche Berna. Ma il Ministero Pubblico Confederazione l'ha già detto ampie volte, non ha purtroppo nessuna informazione dove si trovi Bruno Breguet. Purtroppo non lo sappiamo nemmeno noi. Prima volta che ne ho sentito parlare e leggendo il giornale c'era scritto che un giovane ticinese era stato preso dagli israeliani come simpatizzante, come guerrigliero, e noi ci dicevamo: ma chi è questo? Perché a Bellinzona nessuno lo conosceva. Questo qui, invece di parlare, lui ha preso su e è andato, quindi per noi era, diciamo, un mito, nel senso che uno che ha deciso che no, a scuola non ci voleva più stare e voleva fare qualcosa di utile per la causa palestinese. I familiari di Breguet non se la sentono, non vogliono tornare ad affrontare la vicenda pubblicamente. Mi metto quindi alla ricerca delle persone che lo hanno conosciuto. Chiaro, è stato subito definito terrorista, però per noi c'era qualcuno di noi che era in prigione, nelle prigioni israeliane. Avevate una simpatia? Sì. Questo è il Bruno adolescente, dimostra ancora meno dei 20 anni quando gli hanno fatto la foto. Non sembra neanche spaventato, non era uno che si spaventava facilmente, sapeva cosa l'attendeva. La foto deve essere stata scattata dopo l'arresto, suppongo. Guardalo un po'. Ma che carino! Però non me lo ricordavo con questa faccia qui da bambino, veramente. Il ricordo più nitido che ho di lui è all'inizio. No? Io ero nel comitato cantonale dell'MGP e a un certo punto è arrivato questo giovane ed era un tipo taciturno che ascoltava, non diceva niente. Me lo ricordo sempre perché noi eravamo tutti seduti a un tavolo e lui era con un suo amico seduto contro la parete in fondo che ascoltava, ecco. E però non l'avevo mai visto prima. Giuseppe! e che c'è sopra. Mi puoi dire che c'è sopra, perché è da ridere. Ma c'è ancora anche la Marina, giovane. Ah, guarda, Giorgio, che buffo. Ma sarà una delle manifestazioni contro la guerra nel Vietnam. E penso che in quella manifestazione lì che noi abbiamo buttato delle uova al Migno come arma praticamente di protesta, ecco, non c'erano ancora gli spray. Bruno non voleva far parte dei gruppi. No, lui non voleva far parte dei gruppi, lui ha detto lui non si fida di nessuno, io voglio lavorare da solo. Infatti è stato così anche più tardi. Bruno Breghe è noto ai nostri servizi dal 29 luglio 1969. In questo periodo frequentava il liceo di Lugano e si era interessato presso la Liga Araba di Ginevra circa la possibilità di essere incorporato in un fronte palestinese. Malgrado numerose assenze, non sempre giustificate, continuò a frequentare gli studi. Quello che faccio fatica a capire è come un ragazzino, in fondo perché abbiamo visto che faccia aveva, che faceva al liceo, che abitava a Minusio, fosse entrato in contatto con una rete del genere. Questo è una domanda tipica di qualcuno che non ha vissuto quel periodo lì, perché veramente quasi si respirava nell'aria la rivolta. Nel 68 avevo 15 anni e c'era un'aria di lotta per i diritti dei più poveri, dei più deboli, diritti all'autodeterminazione, c'erano i figli dei fiori, insomma mettete i fiori nei vostri cannoni, c'erano le guerre di liberazione anche dell'Angola, c'era la Palestina. Il periodo era straordinario perché in Ticino e un po' dappertutto in Europa c'era il 68, un'esplosione di soggettività, la musica faceva da collante, la parola d'ordine peace and love. Il tema della libertà sessuale ci occupava molto e non solo nelle letture. Non solo in teoria. Non solo in teoria, no. Io credo che avevamo con Bruno delle priorità diverse. Credo che entrambi condividevamo certi valori, la solidarietà per esempio, forse anche qualche mito, Che Guevara. Lui è partito dal problema della fame, dal problema dei dannati della terra sottomessi. Mi recai a Beirut, visitai i campi profughi palestinesi. Uno di questi contava circa 30.000 rifugiati. Le loro condizioni mi ricordavano tragicamente i lager nazisti. Quanta miseria in quelle lunghe giornate. Vidi un popolo sofferente e mi sono chiesto come chi ha conoscenza di questa tragedia possa tacere, rimanere indifferente e non ribellarsi. E queste parole mi ricordano che i campi visitati da Breghe nel febbraio del 1970 esistono ancora oggi e i profughi palestinesi non sono mai potuti tornare nelle loro case. L'occupazione è andata avanti nell'indifferenza della comunità internazionale. Il conflitto, i soprusi, le ingiustizie hanno preso una piega ancora più feroce e cruenta. What do you hope to achieve? You see, definitely our rights and our hope to return back to our homes from which we had been kicked by force of imperialism and Zionism. Per lottare contro l'occupazione di fronte alla superiorità militare e tecnologica di Israele, la resistenza palestinese pianifica attentati, conduce azioni di guerriglia, organizza campi di addestramento, diventando un punto di riferimento per molti gruppi militanti in tutto il mondo. anche Breguet si rivolge al Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, di orientamento marxista-leninista, capitanato da George Habash. In quel momento, una delle fazioni più radicali. That we have the full right to make pressure here on the reactionary regime and on America, and this will be a winning card in our hand. I'm talking very frankly. Tra gli strumenti di pressione, i dirottamenti aerei. In quegli anni diventano sempre più frequenti ed eclatanti, con azioni di grande impatto in tutta Europa, anche in Svizzera. Mit dem El Al-Attentat von Zürich-Kloten, bei dem einer der vier arabischen Terroristen und ein Trainingspilot des Flugzeuges ums Leben kamen, wurde der nahöstliche Guerillakrieg am 18. Februar bis in unser Land getragen. Nel frattempo, dall'aereo israeliano era sceso un uomo armato di pistola. Egli si diresse senza esitazioni verso uno dei membri del comando palestinese, che era stato fermato da un pompiere elvetico. Malgrado fosse ormai indifeso, gli sparò a bruciapelo direttamente alla gola un primo colpo. Nei mesi seguenti, la stampa svizzera accusò il fronte e alla fine del processo, i tre palestinesi furono condannati a 12 anni di carcere, mentre l'agente israeliano, contro ogni buon senso, venne assolto. I fatti di Kloten lasciano un segno indelebile su Bruno Breguet. Nel suo libro, li descrive come un punto di svolta nella storia della sua vita. Di fronte a questi avvenimenti, nasceva ossessiva in me l'idea di dover fare qualcosa, contribuire in modo concreto alla lotta contro l'imperialismo. Nel popolo palestinese ho visto l'esempio più lampante di un popolo martoriato. E possiamo immaginare che Breguet per i vari viaggi sia partito da qua. È partito da qua ed è salito su questo marciapiede che era l'unico marciapiede. Il mattino del 17 giugno 1970, Bruno comunicava alla madre che sarebbe partito da casa per recarsi a Milano. Breguet portò una valigia con indumenti personali in deposito alla stazione di Locarno e verso mezzogiorno si presentò al domicilio della sorella per chiedere in prestito l'apparecchio per cinepresa di fabbricazione giapponese di marca Cosina Super 8. Bruno rimase dalla sorella non più di un quarto d'ora, poiché doveva partire con il treno delle 13:19. Qualche giorno prima del 17 giugno, Bruno pregò la madre di confezionare due cinture in stoffa che, secondo il dire di Bruno, dovevano servire per trasportare libri. La madre, insospettita ed incuriosita di quanto stesse combinando il figlio, controllava la sua camera ed in un armadio rinveniva il passaporto e un biglietto di andata e ritorno via mare, Venezia-Haifa. Quando ho preparato la sua partenza non si è mai rivolto a nessuno del movimento, nessuno lo conosceva. Il 23 giugno 1970, alle 7 del mattino, la nave italiana Enotria entrava nel porto di Haifa. Il rombo degli aerei da caccia israeliani risuonava ancora nelle mie orecchie quando scesi dalla nave e mi avviai verso il posto di dogana. Mi ero allenato a portare la cintura di stoffa contenente 10 pezzi di esplosivo. All'inizio avevo difficoltà con la respirazione, tanto l'esplosivo era schiacciato contro lo stomaco. Venuto il mio turno, il doganiere esaminò a lungo il passaporto, il contenuto della valigia e la cinepresa. Due sbirri in abiti civili si stavano avvicinando. In quel momento capii che ero stato scoperto. Fui preso e gettato in un grande cortile quadrato con delle porte di ferro. Cosa mi succederà? Una cella con al centro un lettino fissato al pavimento. Due coperte sporche, nient'altro. Di giorno il rombo assordante dei caccia mi rincretiniva. La peggior cosa è che non so che fare. Il tempo non passa mai. Almeno avessi un libro. La notte difficilmente si dorme. Fa un caldo infernale e i moscerini mi mangiano. Per fortuna sono di nazionalità svizzera, altrimenti mi avrebbero già ammazzato. I palestinesi non si fidavano di lui, di questo giovane che non si sapeva da dove spuntava. Quindi era stato messo in prova per trasportare questo materiale esplosivo e durante il viaggio di prova lui è stato preso, quindi... E perché non si è opposto? Chi lo sa. Allora, il Bruno Brega è Ducalè. Carlo Marx. Ma guarda l'indole. Guardalo qui. Tutto giallognolo. Io quello che so della sua prigionia l'ho letto nel libro che scrisse e che pubblicò dopo. Un libro che mi lasciò atterrito anche, devo dire la verità, qualcosa di anche di molto. È il titolo di per sé. Parlano, si va a scuola dell'odio. Ho coltivato una piantina di avocado che ho messo nell'acqua. Oggi possiede 20 foglie. Mi piace tanto rimanere a guardarla ed esaminarla. Lei pure vive senza nuocere. Lodevole Dipartimento Politico Federale, abbiamo appreso dalla Polizia Cantonale che nostro figlio è stato arrestato e tradotto alle carceri di Tel Aviv. Siamo oltremodo preoccupati per la sorte di nostro figlio. Vi saremmo grati, appena potrete, di darci sue notizie. Cari genitori, mi hanno trasferito in un'altra cella dove tuttora mi trovo. In questa prigione siamo più che al completo. Qui viene trasferito chi non si comporta bene nelle altre. Un lager. Qui non si può mai contare sull'aiuto altrui. Sei solo contro tutto e tutti. L'importante è di continuare, io sempre continuerò. Non il cemento e il ferro può fermare la volontà. Che può la materia contro la ragione? I genitori gli sono sempre stati vicini? Sì, sempre. La famiglia era una famiglia generosa, solidale. Non credo che fosse una famiglia di sinistra o di tradizioni socialiste, però con una grande apertura mentale. Lo capivano, lo accettavano e rispettavano la sua voglia di libertà. Il processo non è stato facile. Non sapevo che diavolo si stesse fabbricando a mia insaputa e dovevo lottare contro il procuratore militare e a volte anche contro il mio stesso avvocato. L'avvocato della difesa desidera far testimoniare uno psicologo che possa provare che Breghe non è sano di mente. La debolezza di carattere dell'interessato è evidenziata dalla facilità con cui si fa influenzare da gente senza scrupoli. Malgrado abbia 19 anni, Breghe ha dimostrato di avere la maturità di un ragazzino di 16 anni. Per difendersi dirà che, magari la storia è anche vera, che l'atto era dimostrativo. Fa un po' strano però pensare che aveva il detonatore, dunque chi lo sa, non possiamo giudicare le cose che non sappiamo. Decisi di chiarire la mia posizione e di spiegare perché io, giovane europeo, mi ero impegnato nella resistenza palestinese. Il mio compito era quello di contrabbandare questo materiale esplosivo, depositarlo disinnescato all'ultimo piano della Shalom Tower e farlo scoprire ai giornalisti. L'azione unicamente intimidatoria avrebbe dovuto contribuire ad attirare l'attenzione sulla miserabile condizione dei campi profughi. Ora che il processo è finito, sento di essere stato umiliato. Per me la sentenza non ha alcun valore per dei motivi di cui è inutile parlare, tanto sono evidenti. Signor Breguet, come giudica la pena inflitta a suo figlio per la vita? No, c'è niente da fare. Io non parlo niente. Noi eravamo scioccati perché in fondo non aveva fatto niente, e però era stato condannato a 15 anni. Non urlai, non piansi, rimasi a terra pieno di odio, un odio che si trasformava in un nodo bruciante, ma non dissi nulla. La tortura è qualcosa che sporca, una sporcizia segreta e profonda che la vittima è costretta a portarsi dentro. Fui ossessionata dal pensiero che dovevo resistere e continuare a vivere per poter uccidere un giorno i miei torturatori. Non ne so niente di quanto può voler dire essere stato violentato anche, no, nella tua persona, ferito, di cosa sia il dolore per la perdita di... della libertà. E però d'altro canto mi immagino anche cosa voglia dire togliere la libertà a chi uccidi, no? E come si fa a dire che non fosse poi per certi aspetti anche giusto, no? E questa la distanza. Da una parte capisco e dall'altra parte non posso condividere. Breguet è poco più che ventenne quando viene condannato a 15 anni di detenzione nelle prigioni israeliane. Subirà torture, violenze fisiche e psicologiche. Non cederà alle richieste di pentimento. Si confronterà con la rabbia e con la voglia di vendetta. In questo periodo Breguet studia, impara l'arabo, stringe amicizie e alleanze con altri detenuti politici, partecipa a scioperi e ribellioni, continua dall'interno del carcere la sua lotta. Il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina lo inserisce nella lista di prigionieri politici, di cui richiede ufficialmente la liberazione. Per Breguet il carcere è un periodo formativo, lo definisce la scuola dell'odio. Un periodo in cui cresce, anche politicamente, e si radicalizza. Non c'erano contatti. Di quello che mi ricordo non c'erano contatti. I contatti si sono ricominciati quando il fratello è arrivato a Zurigo per dire che stava intraprendendo di nuovo una campagna per tirar fuori il Bruno dalla prigione. In quegli anni lì c'era un clima molto agitato, ricco di avvenimenti, che era l'epoca dell'iniziativa Schwarzenbach, sulla quale noi ci siamo spesi molto. Il nostro obiettivo era quello di rompere la pace del lavoro. Significava creare degli scioperi, e alcuni scioperi ci sono stati. Come mai dal Ticino vi siete trasferiti a Zurigo? Perché bisognava venire a Zurigo se si voleva fare la rivoluzione. Ecco, per dirti la naivete che c'era. Perché le industrie erano a Zurigo, gli operai erano a Zurigo, e visto che in Italia c'erano scioperi così, bisognava farli anche a Zurigo. Facevamo spesso levatacce per andare a distribuire volantini nelle fabbriche. E anche lì ci si faceva delle illusioni incredibili nel pensare che bastasse la distribuzione di un paio di volantini per far sì che gli operai subito entrassero in sciopero o chiedessero un aumento di salario. A un certo punto abbiamo aperto una libreria, era una libreria un po' particolare, che vendeva libri di tipo politico, no? E l'Ecolibro era diventato un po' un punto di passaggio per tutti quelli che avevano bisogno di sapere dove era l'uno, dove era l'altro. Era un turbinio praticamente tutto il tempo. qui c'era la libreria e noi abitavamo al secondo piano sopra. Benzezet una volta aveva scritto che era frequentato da terroristi, non mi ricordo, che io poi non Stucchi ci aveva, il padrone di casa. Ci aveva mandato la disdetta, lui ha detto no, c'era sulla NZZ, perciò è sicuramente vero. Lì dentro abbiamo messo anche un segretariato internazionale di potere operaio, che era il coordinamento in Europa degli autonomi, se vuoi, andava fino a Amburgo, eccetera, c'erano anche inglesi e così, ma era soprattutto una cosa organizzata con gli italiani. In Italia le lotte operaie crescevano, c'era il famoso autunno caldo e noi ci sentivamo molto influenzati dall'Italia. Sono cominciati anche in Europa, che vicino a noi, gli attentati. C'è stata una dura repressione di polizia, allora la sensibilità verso i prigionieri è aumentata e non a caso, proprio in quel periodo lì, Ernesto ci ha contattato e ha preso l'idea di creare questo collettivo nazionale. Mio fratello ritiene che la lotta del popolo palestinese è giusta e che concerne anche coloro che non sono direttamente coinvolti nella lotta medesima o impegnati, diciamo. Ernesto ha fatto un lavoro straordinario e tutta la sua vita era occupata dalla difesa del fratello, però intratteneva contatti con avvocati che per noi erano personaggi un po' dubbi. Ogni tanto avevamo l'impressione che pur di difendere Bruno si accettassero anche dei sostegni nel campo dell'antisemitismo che noi non accettavamo. Avevamo comunque delle difficoltà perché era difficile sostenere un personaggio che appariva come terrorista, che appariva come uno legato agli attentati, agli esplosivi. È da lì che è nata l'idea di raccogliere delle firme di intellettuali svizzeri, italiani, francesi. Dovevamo puntare su persone autorevoli che ci sostenessero. Il 24 giugno del 77, 7 anni e un giorno dopo il mio arresto, venni prelevato nel pieno della notte e condotto all'aeroporto di Lod. Dopo una lunga attesa mi rimbarcarono sul volo per Zurigo-Kloten. Lasciavo Ramleh e la Palestina occupata come un palestinese. Un palestinese. La notizia l'abbiamo ricevuta oggi pomeriggio e dall'agenzia telegrafica svizzera ci è pervenuta questa notizia. Ci ha fatto molto piacere in sé questa notizia, ma finora non abbiamo ancora ricevuto una conferma ufficiale dal Dipartimento Politico Federale. Questo era il cooperativo, no? Che era il ristorante degli italiani emigrati, operai, soprattutto operai, ed era un posto sempre pieno di gente, eravamo un po' di casa qui. E voilà, grazie mille. Prego, signori. Tank. Anche. È ancora come prima, sì, si saliva sì, già sì. Da qui. Già. Ah, pensavo ci fossero ancora i messo a posto, però, beh, più o meno... Il tavolo della conferenza stampa era lì. Era lì in fondo. Sì, sempre, in fondo. Sì. Stamattina alle 2. Von der Befreiung erfuhr er erst vor 2 Tagen und er wurde heute Morgen um 2 Uhr vom Gefängnis entlassen und im Flug. Io sono divenuto un uomo libero quando sono sceso dall'aereo qui in Svizzera. Wurde also praktisch entlassen, als er hier in Zürich aus dem Flugzeug stieg. Nel complesso, dato che sono stato liberato, è stato positivo, ma vi sono stati dei momenti veramente negativi. Ciò che sempre ho chiesto dalle autorità consolari in Israele non è di liberarmi, ma è di aiutarmi nei miei studi in prigione. Questo aiuto a volte è mancato. A Kloten non si è potuto parlare tanto, c'è stata la conferenza stampa, i primi saluti. L'ho trovato nei giorni seguenti a casa sua e l'ho visto molto più tranquillo, disteso, sorridente. Prova volesse assorbire tutto quello che aveva perso. Quando arrivava a Locarno, Menuso, ci trovavamo qui. Eravamo venuti ad aiutarlo alla redazione del suo libro. Ricordo molte ore passate in quella terrazza. Lì c'è la cucina, dove la madre, nel suo aiuto, faceva i biscotti di Natale. È il 1977 quando Bruno Breghe torna in Ticino, a Minusio, un paesino vicino a Locarno. Qui viene sorvegliato da vicino dalla polizia. In quegli anni in Svizzera esisteva un imponente sistema di sorveglianza di massa della popolazione. Senza alcuna base legale, negli archivi segreti, viene accumulato quasi 1 milione di dossier, anche su cittadini incensurati. Uno scandalo che verrà alla luce solo nel 1989. Naturalmente Breghe, visti i suoi trascorsi, ha il suo dossier. Nel fascicolo trovo decine e decine di pagine ricche di dettagli e osservazioni. Mi aiutano a ricostruire le sue relazioni e i suoi percorsi. Contatto con Bellini Giorgio, Toni Claudia e Berta Marina. Quest'ultima lo invita a cena il 1 giugno. Breghe in questo periodo fa la spola fra Zurigo e il Ticino. Mi ha colpito questo ragazzo che era stato così tanto tempo in prigione. Mi ricordo che aveva avuto una difficoltà con la cabina telefonica, perché non c'erano le cabine telefoniche prima che lui entrasse in prigione. Quindi bisognava, in Italia poi era ancora peggio, perché bisognava mettere il gettone. Questa è Eva e Bruno. E lei era un'amica di Berlino che era venuta a trovarmi e si sono incontrati e lei partiva per la Grecia in vacanza e lui ha deciso di andare insieme. Informativa su Eva, nata nel 1944. Anche lei sembra condividere le stesse idee politiche estremistiche di Breghe. E lei era molto brava, era veramente. Penso che ha avuto anche molta pazienza, perché lui, essendo rimasto in prigione hai pochissimo spazio, quindi diventi maniaco, la pulizia, non so. Cioè deve essere stato abbastanza difficile. E quando sono tornati, lui ha pensato di andare a Berlino, voleva scrivere le sue memorie, quello che ha vissuto in prigione, voleva elaborare un po'. E infatti ha scritto quel libro, La scuola dell'odio. Il 1 giugno è nato mio figlio. Spero tu non ne rimanga troppo scioccata. Effettivamente molti non riescono a immaginarmi come padre. Ti telefonerò quando rimarrò in Ticino più a lungo. Mi ricordo, sono andata a trovarli. Allora, a quell'epoca Bruno ristrutturava la casa di Eva, perché era il suo modo di contribuire agli alimenti del figlio. E ti aveva stupito? No, Bruno non voleva figli, perché lui voleva, penso che voleva dedicare la sua vita alla lotta. non se la sentiva di assumere. Però Eva aveva una certa età, quindi... Ed era contento poi di questo bambino? Sì, però lui lavorava, lui faceva un po' il maschio, l'uomo, non so io. Uh-huh. Io a posteriori ho pensato che quasi subito lui sia stato in ansia nel tentativo di ricucire rapporti, di rimettersi in contatto con la rete. Breghe sta partendo per prendere contatto con dei gruppi terroristici legati all'FPLP in alcuni paesi arabi. Vale la pena ricordargli, anche in maniera decisa, l'impegno che ha preso con l'ambasciatore svizzero in occasione della sua liberazione. Si sentiva il suo bisogno di rientrare in quel tipo di carriera lì che ho cominciato, diciamo, male. Nei documenti trovati negli archivi della Stasi, la polizia segreta della Germania dell'Est, leggiamo che Bruno Breghe a Berlino, fra il 79 e l'80, sarebbe entrato a far parte dell'Organizzazione Rivoluzionaria Internazionale. L'ORI, gruppo di ispirazione marxista-leninista, è guidata da Carlos Lo Sciacallo, ovvero il terrorista venezuelano Ilich Ramirez Sanchez. Qui Breghe sembra assumere un ruolo di coordinamento, cura i contatti fra diversi gruppi armati europei e si occupa della logistica e delle armi che transitano illegalmente attraverso la cortina di ferro. A un certo punto ho saputo che lui faceva parte di questo gruppo, ma era come se non lo sapesse, ecco, non si è mai, lui non me l'ha mai detto e io non gliel'ho mai chiesto. Io ho capito questo passaggio, mi rendevo conto che Bruno non aveva più la possibilità, non so in che termini, ma perché lui non ne parlava, di riagganciarsi direttamente ai gruppi palestinesi. Ripeto, penso che la soluzione di Carlos fosse una soluzione di ripiego. Proprio come Breghe, Carlos è entrato nel Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina nel 1970. Nel giro di pochi anni acquisisce fama internazionale grazie allo spettacolare attentato a Vienna, la sede dell'OPEC, l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio, con la presa di oltre 60 ostaggi. Molto abile nel gestire la sua immagine pubblica, presentandosi come rivoluzionario, Carlos diventa il terrorista più conosciuto e ricercato al mondo. Per combattere l'imperialismo americano in tutte le sue forme, questo l'obiettivo dichiarato, Carlos può contare su militanti del Fronte Popolare, su membri della sinistra radicale tedesca, oltre a una vasta rete di contatti, che comprende anche servizi segreti e governi. Tu quindi non credi nella figura di Carlos come rivoluzionario? Non ho le menti per giudicarlo, penso che sia comunque un ribelle, ma penso che... come ogni ribelle che lotta per conto suo, mettendo il proprio nome davanti a tutto, non serva tanto alla rivoluzione. Io non ho quell'idea lì di rivoluzione. So sah es heute Vormittag vor dem Gebäude des Senders am Englischen Garten in München aus. Zur Zeit der Explosion hatten sich 30 Redakteure in dem betroffenen Gebäude befunden. Die Bombe war in der Reparaturstelle für die technischen Anlagen explodiert. Auswirkungen auf die Sendetätigkeit hatte das Attentat aber nicht. Questo attentato, che provoca danni e feriti, ha come obiettivo Radio Free Europe, l'emittente che da Monaco di Baviera trasmetteva propaganda americana nei paesi del blocco dell'Est. Il gruppo di Carlos lo avrebbe pianificato per conto della Securitate, i servizi segreti rumeni del regime di Ceausescu. In cambio avrebbe ottenuto armi, esplosivi e supporto logistico. Secondo diversi documenti dei servizi segreti ungheresi, Breghe è in prima linea nell'organizzazione di quest'azione. Con il nome in codice di Luca, sarebbe stato lui ad azionare il dispositivo che ha fatto esplodere la bomba. Nonostante un'inchiesta, non sarà mai ufficialmente incriminato. Io Io ho conosciuto Carlos un po' per caso ed era un gruppo che non ho mai capito bene. Per me erano un po' degli alieni, nel senso che come ideologia erano proprio un tipico gruppo da guerra fredda, no? Loro erano dei combattenti per l'Unione Sovietica, per il mondo socialista, però nel medesimo tempo queste azioni di, chiamiamo così, terrorismo erano solo una parte della sua attività. Lui aveva anche attività di tipo commerciale, per esempio aveva in mano, credo, la vendita del petrolio alla Romania e queste cose qui, c'erano varie fonti di finanziamento. Carlos era simpatico, sì, con un grande carisma, però con un... Era peggio che Fidel Castro, penso, nella parlantina. Parlava ore. Carlo si è sempre presentato come lotta per i palestinesi. E a me sembrava interessante tutta la faccenda. All'inizio ho sempre pensato che ci fossero delle discussioni per vedere se ero interessata seriamente, ma io non ho mai visto un gruppo. E più tardi, molto più tardi, ho capito che non c'era nessun gruppo, che lui agiva per conto suo, in privato, insomma. Un utopista, un visionario, anche lui con delle manie di grandezza, penso, si è sbagliato un po' in quello che avrebbe potuto raggiungere. Mi interessava poco quello che succedeva attorno a Carlos, per esempio. Seguivo le informazioni, ma a me fin dall'inizio è sembrato un personaggio ambiguo. Ma io ero molto impegnato in quel periodo con quello che succedeva in Italia. Era il periodo di Poter Operaio, più tardi delle Brigate Rosse. C'era una situazione di guerra civile in Italia. Non erano solo quelli di sinistra che combattevano, la destra era molto forte, lo Stato era infiltrato soprattutto nei servizi segreti. Le Brigate Rosse erano già attive da molto tempo e avevano già una linea ben precisa che non era la linea degli autonomi. Gli autonomi proponevano delle azioni che partivano dal basso, sempre aperte, mai clandestine. Rifiutavano questa logica un po' staliniana dell'avanguardia che si arma per risvegliare le masse e farli ribellare. Di tutte queste cose Bruno si era interessato, ma molto marginalmente. Secondo me aveva capito che queste lotte avevano poco a che fare con quelle in cui si era immerso lui. Il terrorismo in questi anni era diventato un facile soggetto di molti giornali. Ma nessuno scrive delle azioni del terrorismo freddo, quello praticato dalle multinazionali e dalle banche, che uccide nel silenzio milioni di esseri umani, che ha condannato migliaia di bimbi a una vita di stenti e di fame e che opera all'ombra della legge, in piena legalità nella democrazia dei ricchi. Il terrorismo è e deve rimanere una terribile arma, un mezzo, non un fine. Es geht darum zu zeigen, ob die Atomlobby oder das Volk das letzte Wort hat. Il movimento antinucleare nel 75 era diventato una cosa grossa, con una grossa manifestazione a Kaiserhaus e poi ci sono stati scontri con la polizia e da lì è partito, perché poi c'erano altre centrali, c'era Goeske, non Leibstadt in costruzione, e noi dicevamo non si possono prendere delle decisioni quando metà della popolazione è a favore e metà è contro, e difatti era più o meno così. E allora noi avevamo pensato, qui bisogna anche dare, c'è un movimento di massa che è forte, che è presente, però bisogna dare anche un po' uno scossone di altro tipo. Kaiser Augst 1979. Als im Informationspavillon des geplanten Atomkraftwerks die Bombe hochging, war der Knall kilometerweit zu hören. C'era un pavillon a Kaiserhaus che doveva fare la propaganda della nuova centrale e l'abbiamo fatto saltare. Noi abbiamo sempre fatto un'estrema attenzione a non danneggiare persone. Ricordo che a Kaiserhaus, per esempio, abbiamo lasciato lì dei cartelli fuori con su attenzione, esplosione, chiamate la polizia, eccetera. E poi si lavorava con micce estremamente corte, che nel giro di 3 minuti la cosa entrava in funzione, per cui non c'era molto tempo che potesse passare qualcuno per caso. Non era la violenza per la presa del potere, era semmai violenza contro cose per attirare l'attenzione. Noi abbiamo sempre parlato di sabotaggio. E poi a quei tempi non c'era, come magari c'è adesso, così la differenza tra il legale e illegale. Oramai era un periodo dove tutti, o almeno a noi sembrava, tutti erano in lotta. Perché c'è, sì, c'è un terrorismo che va, mira le persone, fa delle azioni. È la base del loro modo di muoversi, no? Di terrorizzare, diciamo così, la gente. Però, per esempio, non tutte le azioni illegali o armate o così sono terrorismo. Pensate. E per cui a un certo punto hanno finito sia la stampa sia anche la polizia non capire più niente delle cose reali che succedevano. Il nostro discorso è stato non tanto prendere il potere quanto tenere il potere il più distante possibile per avere i cosiddetti Freiräume, spazi liberi per noi dove poter vivere. Carlo si era molto interessato a quel momento, per esempio al movimento di Zurigo, che gli sembrava una cosa strana, io che cercavo di spiegargli cos'era e lui non capiva, no? Non riusciva a capire, ci considerava un po' fuori di testa, no? Però dicevo, vabbè, perlomeno fate casino in un paese capitalista, ecco. Anticapitalismo, ecologia, spazi liberi, giustizia sociale, solidarietà con i popoli in lotta, sono parole chiave che riecheggiano nell'attualità. Ho l'impressione che ci sia una sorta di fil rouge fra le rivendicazioni degli anni Ottanta a Zurigo e le battaglie dei movimenti di oggi. Occupazioni di case abbandonate, centri socioculturali alternativi in perenne lotta per la sopravvivenza. Tentativi di creare collettivamente degli spazi sociali per rendere più tollerabile la quotidianità. Obiettivi minimi e inevitabili compromessi per una forma di resistenza possibile. Breguet probabilmente non ha mai considerato questa una strada percorribile, troppo blanda e forse inefficace. E oggi, che strumenti di lotta abbiamo a disposizione? L'emergenza climatica richiede una soluzione urgente. Intanto però c'è già chi vorrebbe considerare come terroristiche le azioni degli attivisti ecologisti, nonostante siano assolutamente non violente. Confondere disobbedienza civile e terrorismo rischia di cancellare uno strumento prezioso per il dibattito politico e per la spinta al cambiamento, colpendo in maniera dura e ingiustificata singoli militanti. Il dibattito non è nuovo. Nel febbraio del 1981, Giorgio Bellini viene arrestato al confine tedesco con l'accusa di banda armata. Sarà rilasciato solo dopo 9 mesi. Questo arresto scatenerà una serie di azioni solidali in tutta la Svizzera. Von offizieller Seite verlautete allerdings nur: Freedom and sunshine for Giorgio Bellini. Pochi mesi più tardi anche Gianluigi Galli viene arrestato insieme ad alcuni compagni con l'accusa di essere implicato in attività terroristiche italiane. quasi giornalmente la stampa parlava, mi sospettava di altre implicazioni con le Brigate Rosse, con Potere Operaio. Mi sospettavano di aver creato una rete di rifugi per quelli che scappavano dall'Italia, ricercati dalla polizia, e per averli aiutati a procacciarsi delle armi che poi hanno trafugato in Italia. Beim Prozess hier in Locarno geht es nun um das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen den Angeklagten und italienischen Untergrundorganisationen. Waren es Sympathisanten, Idealisten, die anfangs der 70er Jahre politische Freunde im vermeintlichen Kampf gegen den Faschismus unterstützten? Oder waren es aktive Terroristenhelfer, die vom Tessin aus für Terroranschläge in Italien Hilfsdienste leisteten? Quando fui arrestato, stavo distribuendo i libri di Bruno. Io ne avevo ancora un centinaio nel cofano e quando sono venuti a prendermi, ovviamente, hanno perquisito l'automobile e hanno trovato... E hanno capito subito che c'entrava qualcosa. In realtà le mie storie, quelle di Bruno, sono diverse da ogni punto di vista. Nel febbraio dell'anno successivo, il 1982, anche il nome di Bruno Breghet torna alla ribalta sulla scena internazionale. 16 février 82, dans un parking des Champs-Élysées, un couple de terroristes est arrêté en possession d'explosifs. Apparemment, il s'apprêtait à commettre un attentat près de l'hôtel de ville. L'homme s'appelle Bruno Breghet. La femme, Magdalena Kopp, est la compagne du terroriste Carlos. Parlano di un parcheggio all'incrocio fra Avenue Georges V. Georges V è questo qui che scende. Tout était prêt pour faire exploser la bombe ce jour-là à 22h30. Avant l'arrivée des policiers, l'homme brandit un pistolet 9 mm, ce n'est pas du petit calibre, et le couple s'enfuit. La femme est rattrapée sur les Champs-Élysées. L'homme dont le pistolet s'est enrayé finit par se rendre un peu plus loin, après avoir braqué trois policiers qui étaient là, eux aussi, par hasard. Qui è stato visto da un guardiano che l'ha sospettato di aver chiamato la sicurezza. Pare che abbia impugnato un'arma, abbia cercato di sparare. Aperto. Sicuramente avevano in macchina dell'esplosivo e stavano preparando qualcosa. Non so se si trattava di un attentato simbolico oppure reale contro le persone. Il venetto si debarrassi di una valetta assez lourde. Dedans, on a trouvé due grenades defensives. Et tout un attirail de mise à feu. Or, dans la voiture qui devait être piégée, on trouve aussi deux bonbonnes de gaz, de quoi faire suivre l'explosion par un incendie. Poche settimane dopo questo arresto, Carlos invia una lettera al ministro degli interni francese Gaston Defferre. La lettera minaccia: o liberate i due militanti arrestati o dichiaro guerra alla Francia. Per difendere i due imputati viene ingaggiato l'avvocato Jacques Vergès, grazie al supporto del banchiere nazista François Genoux, che già aveva finanziato la difesa di Breguet in Israele. Vous n'agissez pas sur instruction de monsieur Carlos? Absolument pas. Je suis là pour défendre deux inculpés pour qui je ne cache pas que j'éprouve de la sympathie et de l'estime. Et un point c'est tout. Vergès è detto anche l'avvocato del terrore. Fra i suoi clienti vi sono personaggi scomodi come i militanti della resistenza algerina e criminali di guerra, come il nazista Klaus Barbie, detto il boia di Lione. L'avvocato, facendo leva su di una diversa interpretazione dei fatti, riesce a fare in modo che l'accusa di tentato omicidio venga abbandonata. C'est-à-dire que l'affaire n'aille pas aux assises pour un crime, tentative d'omicidio, mais ce geste, on le prendra pour un geste de menace, simplement. Il n'y avait pas l'intention de tirer. Et donc, ça ira en correctionnel. Aux assises, c'est perpète le maximum. En correctionnel, c'est 5 ans. La France non aveva interesse a restare a lungo bersaglio dei gruppi terroristici del Medio Oriente. La politica ha sempre avuto una forte influenza sui giudici, molto più che in altri paesi. E Vergès picchiava i pugni sul banco dicendo: fate quel che volete, ma rendetevi conto che queste due persone che voi state condannando usciranno presto di prigione. Intanto le minacce di Carlo si concretizzano. Nel marzo 1982 una bomba esplode sul treno Parigi-Tolosa, facendo 5 vittime. Sul convoglio avrebbe dovuto trovarsi anche il sindaco di Parigi, Jacques Chirac. Credo che ci fossero stati 5-6 morti ed era una cosa, cioè, non, per me non accettabile. Mesures de sécurité exceptionnelles ce matin au palais de justice où se déroulait à la 30e chambre correctionnelle de Paris le procès donc des amis de Carlos, Magdalena Kopp, Bruno Brequet. Flash spécial du journal d'Antenne 2 en raison de l'explosion meurtrière qui s'est produite ce matin à Paris près du quartier des Champs-Élysées. Rue Marbeuf. Une voiture stationne devant le numéro 33. Elle explose. La déflagration très violente souffle sur un rayon de 150 mètres toutes les vitrines et les façades d'immeubles. C'est devant le journal libanais Al-Watan El Arabi que stationnait le véhicule piégé. Dernier bilan, un mort, 46 blessés, dont 11 blessés très graves. Attentato fatto a Rue Marbeuf è proprio nel giorno in cui iniziava il processo per la giustizia contro Bruno e la Kopp. Chiaramente era un atto dimostrativo e intimidatorio legato alle sorti del processo. Non mi ha deluso, però mi ha rattristato, perché ho capito che comunque era un percorso tragico, senza via d'uscita, senza nessun significato politico. Il terrorismo, per chi vuole cambiare il mondo, è una soluzione inaccettabile umanamente, politicamente. Però io dico che prima di giudicare persone come Bruno, vada considerato l'altro versante della violenza. La violenza che viene prima, la violenza di chi ha il potere. Siete rimasti in contatto in qualche modo? Aveva i reumatismi, in carcere era giovane per avere i reumatismi, quindi una maglietta di lana e un libro. E mi ricordo che il libro, chissà perché, si chiamava La fortezza vuota. Io pensavo soprattutto alla corazza che Bruno aveva, visto che non parlava dei suoi sentimenti mai, almeno con me. Tu eri ancora in contatto con Eva? Come avevano vissuto loro la faccenda? Sì, lo so, perché lei all'inizio andava ancora a trovare Bruno, partiva da Berlino, prendeva il treno, carrozzina col bambino piccolo, andava a trovarlo con i mezzi pubblici a Parigi, fino alla prigione lì. Tu pensi che lei sapesse che Bruno continuava l'attività militante? Secondo me lei non sapeva niente, sapeva che partiva. Conoscendo la storia di Bruno, la scuola dell'odio, però non sapeva nessun dettaglio, niente. Sarebbe cambiato qualcosa per te se lui avesse ucciso qualcuno? Nel senso che se avesse messo la bomba in un supermercato, lo stile, chiaro, non è una cosa, però io penso che quando si fanno le guerre di liberazione e ci sono questi morti sacrificati, però nella sua ottica, loro pensavano che un sacrificio umano valeva la pena per poter fare che un popolo fosse più libero. Quella strategia non è stata pagante, però c'è stata. Nel 1985, dopo 3 anni di carcere in Francia, Bruno Breguet torna a vivere con Eva e il figlio Paul nella casa dei genitori a Minusio. La sorveglianza della polizia ricomincia e la sua scheda si arricchisce di nuovi elementi. Professione undergrounder. Al suo rientro in Svizzera, Breguet dichiara ai doganieri di essere un rivoluzionario professionista e di voler ricominciare le sue attività. Chiede anche ufficialmente il porto d'armi, sostenendo di essere in pericolo e di aver bisogno di difendersi. Naturalmente, gli verrà negato. Tu ci pigli con la testa. Questa è la trave che Bruno spostò. E prima era appoggiata qua. Cioè, vedi l'altezza? Io ci passavo sotto, andavo bene così. 100 anni, sono tanti, eh? Poi Bruno, quando è intervenuto sul tetto, aveva, non so se Claudia, comunque aveva proposto di inserire questo velux per dar più luce alla casa. Quella finestra lì è stata una... lavorava bene, era preciso, spostava le cose, misurava, guardava. E poi c'è questo benedetto letto. Nel quale sono nati i miei 2 figli. E Claudia ci teneva ad avere un letto dove nascessero i figli della nostra unione, insomma. Io facevo come ho fatto spesso il manovale, nel senso che Bruno sapeva già cosa voleva, cosa bisognava fare. Per me sarebbero bastate 4 viti, 2 bulloni, 4 assi anche più leggeri. Però non ho assolutamente presente di aver avuto discussioni che riguardassero il suo passato di militante, o almeno io pensavo che fosse un passato. Poi non mi ponevo neanche il problema se Bruno fosse o meno ancora implicato in qualcosa. Per me era un amico della mia compagna e c'era forse anche un po' di timore reverenziale, no? Uscivamo comunque da anni dove, bene o male, c'erano delle simpatie per quelli che non accettavano le cose come andavano, no? E lì ci vedevamo spesso così, ma come amici normali, diciamo. È venuto a aiutarci a mettere a posto la casina che avevamo a Corcapolo. E lì non... Lì ho perso le sue tracce, i suoi contatti e penso che fosse un'altra storia lì di nuovo. Breguet prenota un posto su un volo per Damasco via Belgrado presso l'agenzia Corner Viaggi a Locarno. I viaggi di Bruno Breguet a Damasco sarebbero serviti per riallacciare i contatti con il gruppo di Carlos, che nel frattempo è stato costretto a rifugiarsi in Siria, dove può ancora contare su appoggi e sostegno. Qui, però, le attività del gruppo sono molto limitate, legate soprattutto ad affari economici, traffici e altre azioni illegali, senza più nessuno sfondo politico. Poi arriva il 1989, la caduta del muro di Berlino. Io ho 6 anni. Mia zia mi porta in regalo dalla Germania un pezzo di cemento coperto di pittura. Finisce la guerra fredda e la divisione dell'Europa fra est e ovest. insieme al muro, si sgretola il mondo grazie al quale Carlos poteva esistere. Ho incontrato Bruno alcuni anni dopo il suo rilascio dalla Francia, dalla prigione francese. L'ho trovato molto cambiato, l'ho trovato svuotato, l'ho trovato in crisi, è come se non credesse più a niente. E mi ha fatto molta impressione. Non mi ha detto quello che intendeva fare, non me l'aveva mai detto, ed era, come lui non aveva mai chiesto a me cosa facessi. Però mi ha detto, questo me lo ricordo bene perché sono le ultime cose che mi ha detto, che si trovava oramai senza punti di riferimento. E mi diceva: vorrei tirarmi indietro, ma so che questo è molto pericoloso. È molto pericoloso tirarsi indietro. Il mio rapporto con Bruno è finito lì. Probabilmente a quell'epoca mi ha parlato della casa lì in Grecia che aveva comprato, una casa vecchia. Io penso che lì era pronto a lasciare, penso. Questo paesaggio gli ricordava probabilmente la Palestina, almeno credo. Breghe intanto ha interrotto la sua relazione con Eva e conosce Carol, con cui avrà una figlia, Shona. Si stabilisce in Grecia, a Perdica, un piccolo villaggio arroccato su una collina, non lontano da Igoumenitsa, cittadina dalla quale salpano regolarmente i traghetti per l'Italia. Bruno Breghe. Bruno Breghe. No, non è lì. Nico! Ah, Nico! Ah, Nico! Bene! Fetane conoscevo. Paola, sono da bambino e signia. Bambino, Paola. Paola, sì. Paola. Paola e sono. Paola e sono. Vo. Paola. Da Hau. That was the house of Bruno. This one? The old house. Bruno. Was my friend. Yeah. My friend. Together. Essen. Essen. Yeah, all. Well, two children together. Okay. Ah, two children. Okay. Queste finestre, queste pietre bellissime. Mamma mia. È proprio bella, chissà. Oh, hai visto? Cos'è questo piantone? È bello. È un gelso non potato da anni. Qui c'è una scalinata che fa una curva, una scalinata di pietra, che non è che ha comprato un posto qualsiasi. Ha trovato questa casa vecchia, mezza in rovina, e l'ha voluta ristrutturare. Non so cosa pensava di farci, perché è enorme. Mi ero fatto l'idea che gli ultimi anni della vita di Breghe fossero stati in qualche modo più sereni. Me lo immaginavo in Grecia con la sua famiglia. Mi immaginavo che si stesse lasciando Carlos alle spalle, forse almeno in parte riconciliato col suo passato. Invece, mi sbagliavo. Un nuovo libro porta ora alla luce una pagina finora sconosciuta della storia movimentata di Bruno Breghe. Emerge che il ticinese era stato anche un agente della CIA. Mentre sono in corso le ricerche per questo film, mi contatta Adrian Henny, un ricercatore specializzato in storia dell'intelligence e del terrorismo. Ha incontrato la vicenda di Breghe approfondendo quella di Carlos e i suoi rapporti con il banchiere nazista Genoux. Grazie all'analisi di alcuni documenti, desecretati nel 2006, lo storico propone una tesi sorprendente, basata su tracce frammentarie, visto che solo una parte dei documenti sul tema sono accessibili. Bruno Breguet avrebbe collaborato con la CIA, con il nome in codice di FD Bonus One. Den Kontakten zwischen Breguet und der CIA habe ich in einem Nationalarchiv in den USA in einem etwas ungewöhnlichen Bestand eine Reihe von ein paar Dutzend operativen CIA-Dokumenten gefunden, die diesen Kontakt und auch die Zusammenarbeit zwischen Bruno und der CIA aufzeigen, die auch einige Details aufzeigen, wie konkret diese Zusammenarbeit funktioniert hat, auch logistisch. Natürlich bleibt es eine Spitze des Eisbergs. Also vieles wissen wir nicht, aber die Dokumente, die wir Zugang haben, die zeigen doch die Grundzüge dieser Zusammenarbeit auf. FD Bonus One ci ha parlato della proposta di Carlos di reintegrarlo nel gruppo, ma ha evitato di impegnarsi. Ha fornito alcune informazioni sulla volontà di Carlos di spostarsi da Damasco. Tuttavia, sono solo informazioni di seconda mano. Die CIA war damals zu Beginn der 90er Jahre sehr erpicht darauf, eben diese Carlos-Gruppe aufzuklären und dann natürlich auch hier das Handwerk zu legen. Und entsprechend war sie sehr daran interessiert, dass an Bruno Breguet als Agenten und dass er ihr vor allem auch einmal einfach sehr viele Informationen über diese Gruppe liefert. Also er hat die ganzen Arbeitsweisen, die Modus operandi der Gruppe hat er preisgegeben, er hat der CIA erzählt, wo die Waffenverstecke der Gruppe liegen und dann versucht der CIA eben auch Informationen zu geben, die im Zug standen mit dem Aufenthaltsort von einzelnen Gruppenmitgliedern oder die es der CIA erlaubt hätten, sich auf die Fersen dieser ehemaligen Terroristen zu heften. Wir wissen es leider nicht aus erster Hand, was damals in Brunos Kopf vorgegangen ist. Es gibt keine Dokumente, wo er beschreiben würde, warum er sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Enttäuschung, aber auch Verdrossenheit, Ernüchterung sind eine Reihe von Entwicklungen in der Beziehung von Bruno zur Gruppe, die sicher wichtig waren für diesen Entfremdungsprozess, der ihn letztlich dazu bewogen hat, die Gruppe zu verraten und mit der CIA zusammenzuspannen. Io non lo so. Io so che per me era un idealista. Finché l'ho conosciuto era un idealista. Però non penso che fosse proprio andata dalla CIA che sosteneva Israele, sosteneva la colonizzazione di... Cioè questo mi stupirebbe. È talmente lontano questo mondo da me che non ho... Era uno che si teneva dentro tutto, come faccio a saperlo? Ho l'impressione che si tenesse dentro tutto quello che per la sua vita era importante, forse anche per tutelare le persone che gli stavano vicino. Nel suo libro, Adrian Enni ipotizza che a partire dal 1991 Breguet si sia offerto di collaborare con la CIA, recandosi di sua spontanea volontà all'ambasciata americana a Berna. Cerco conferme. Fonti vicino alla famiglia mi confidano una versione leggermente diversa. E questo te l'ha detto lui? Sarebbe stata la CIA a prendere contatto con Breguet in Grecia e a esercitare delle pressioni per avere informazioni sui suoi rapporti con le organizzazioni di estrema sinistra locali e con il gruppo di Carlos. Le questioni che restano aperte sono molte. Per esempio, nonostante diversi dettagli contestuali coincidano, il nome di Bruno Breguet non appare espressamente in questi documenti. Nein, der Klarname Bruno Breguet erscheint so nicht in den Dokumenten. Man braucht etwas historisches Kontextwissen, um mit Sicherheit schließen zu können, dass es sich hier um Bruno Breguet handelt. Denn im Falle von Bruno Breguet war das FD Bonus One, und das war sein Codewort, sein Kryptonym innerhalb der CIA. Sembrerebbe che gli incontri con la CIA venissero in stanze di hotel, soprattutto a Berna. E che per la sua attività avrebbe ricevuto un compenso mensile di $3,000. Quella che però appare chiaramente è una certa reticenza da parte di FD Bonus One nel rispondere alle richieste. Più volte la CIA lamenta lo scarso spirito collaborativo dell'agente e l'eccessiva vaghezza delle informazioni fornite. Non si sa come e quando i rapporti si siano interrotti. L'agente non è proattivo. rimane riluttante nel parlare dei suoi contatti in Europa e delle loro attività terroristiche. Ha fornito informazioni su operazioni passate di Carlos, ma dà l'impressione di poco interesse. La sua storia è diventata una spy story dove tutti gli ingredienti giornalistici possono essere inseriti, tutto fa spettacolo. E d'altra parte, chi lavora nella clandestinità non ha più tanti scrupoli nel costruire una rete che contatta anche il nemico. Penso che si trovasse solo nella sua testa a pensare, decidere, riflettere cosa faccio, chi cerco, di chi mi fido, di chi non mi fido. Nell'agosto del 1994 i servizi segreti francesi riescono ad arrestare Carlos in Sudan. Per mesi il superterrorista è stato seguito e filmato. Non ci sono però elementi che fanno supporre che questo arresto sia legato alle informazioni fornite da FD Bonus One. L'arresto di Carlos ha però delle ripercussioni anche in Svizzera. Carla Del Ponte, che da poco aveva assunto la carica di procuratrice federale, arresta Giorgio Bellini e Marina Berta insieme ad altri due militanti ginevrini. Saranno accusati di assassinio per aver partecipato alla preparazione di vari attentati. Questo articolo invece devo mostrarti. Oh, mamma mia. Ah sì, beh, questo è uno dei tanti articoli che sono usciti quando siamo stati arrestati dalla Madame Del Ponte. Di cos'è che ti accusava la... Ah, ma di aver partecipato a tutta una serie di attentati. Infatti uno dei titoli geniali della regione di Locarno era Scia di sangue attraverso l'Europa, che tra l'altro ha fatto malissimo naturalmente a mia mamma, perché è chiaro che non poteva capire niente di tutto questo, era lontana anni luce. Sono stata arrestata per strada con due agenti armati che mi hanno manettata. Mi sono fatta 3 mesi di prigione, poi siccome neanche a livello di indizi si è trovato qualche cosa, sono uscita. È quello che ha interpretato la Del Ponte. Lei ha lavorato su carte della Stasi, no? Da queste carte risultavano dei contatti, dei rapporti con Carlo. Per cui ha costruito, ha dovuto dire che io ero, non so, complice di questo attentato Fioroppa, altri, non so più esattamente cosa fosse, poi è caduto tutto, no? Una grande solidarietà da fuori, avevo la cella che somigliava a un negozio di commestibili perché continuavano ad arrivare pacchetti da tutte le parti. È stato uno shock, questo è evidente. Anche se ho voluto negarlo per tanto tempo, è stato veramente uno shock. Sul giornale c'era scritto che Bruno veniva dalla Grecia con la compagna e la bambina, e qui al porto di Ancona non è stato lasciato scendere, gli hanno ritirato il passaporto, quindi lui ha potuto fare ancora una telefonata e dire, mi sembra, al fratello che insomma dovevo tornare indietro e se non avessero avuto notizie fra qualche giorno ci sarebbe stato da preoccuparsi. Lui è tornato in Grecia, ma dal porto Egomenizza non è mai sceso. Quindi non sappiamo, nessuno sa cosa è successo. Eravamo tutti esterrefatti e d'altra parte si aspettava vedere se ricompariva. Io penso che lui sempre doveva vivere un po' sul chi vive. If you have children traveling with you, ask the steward to get a children's life jacket for each child. Passengers with no cabin, go to the nearest assembly station. Remain calm and follow the instructions. Mi ricordo solo la telefonata dell'Ernesto che mi ha detto Bruno è sparito e mi ha raccontato la storia del battello e quello che sapeva. Misterioso sequestro del ticinese Bruno Breghe, secondo i suoi amici, sarebbe nelle mani dei servizi segreti greci. Scomparso nel nulla, 20 minuti prima che il traghetto che lo stava riportando in Grecia attraccasse al porto di Igoumenitsa. E l'ultima versione, la terza nel giro di 3 giorni, sulla sparizione del ticinese Bruno Breghe, versione diffusa in un comunicato ieri sera e ribadita stamane durante una conferenza stampa ad Atene. Alla periferia di Atene siamo riusciti ad individuare il domicilio del capitano del traghetto. 2 le versioni da lui sostenute. La prima è che Bruno Breghe abbia lasciato clandestinamente la nave dopo i controlli di polizia allo sbarco dei passeggeri. Seconda ipotesi, Bruno Breghe è invece stato sequestrato dai servizi segreti greci a bordo della nave, rinchiuso nel baule di una macchina e fatto scendere dalla nave in questo modo. In effetti è stato un sequestro di persone organizzato in piena regola, in modo anche molto più machiavellico di quello che pensavo. The captain gave me information that, oh yes, Bruno had traveled back on his ship on the 11th of November and that he left the ship in Igoumenitsa. What exactly do you believe it happened to Bruno? I believe he has been kidnapped by the secret police. Povera, lei ha sofferto veramente tantissimo. E per un certo periodo credeva anche che io sapessi dove avessero nascosto il Bruno, figurati, se non gliel'avrei detto. E lei era caduta dalle nuvole proprio quando ha saputo che lavorava con Carlos, da quello che so. Non le aveva detto nulla? No. Lì dopo non si capisce bene come mai. Perché gliene importava tanto sia della Carol che della bambina. Sono strane queste reazioni da parte, non si capisce. La famiglia inizia le ricerche, ma quasi sempre incontra un muro di silenzio, di non sappiamo o di calcolato disinteresse. Il Ministero Pubblico della Confederazione sostiene di non sapere nulla sui retroscena della vicenda. Il caso non è di nostra competenza, ci è stato detto al Ministero Pubblico, che appare infastidito dalle sollecitazioni telefoniche del fratello e del legale di Bruno Breghe. In fondo si è solo detto è sparito, punto e basta, non è che c'era un'inchiesta anche da parte della Svizzera, non mi ricordo che c'è stato un interesse. Ma come per dire, tanto era un terrorista e gioventù, insomma. Una tra le molte ipotesi che circolano qui ad Atene è che le nuove prove raccolte sull'attività di Carlos in Grecia provengano da un paese straniero, paese che l'avrebbe fornite in cambio della consegna da parte dei greci di Bruno Breghe. Nous savons que les autorités grecques mènent une enquête maintenant générale dans tout le pays pour vérifier si véritablement monsieur Breghe se trouve dans le pays. In quel periodo lì saltavano fuori queste storie delle carceri segreti, no, in paesi dove anche la tortura era permessa e per cui stati cosiddetti democratici, che teoria la tortura non potevano farla, li piazzavano lì dove c'era qualcuno che faceva per loro. La stampa ellenica continua a dedicare largo spazio alla vicenda Breguet e, in mancanza di novità sul destino dello scomparso, sono le dichiarazioni del fratello Ernesto a riempire le pagine. Ernesto Breguet ha comunque un'agenda carica di impegni, incontri non ufficiali con testimoni ed informatori. Vi sono degli elementi che fanno credere che ci siano i servizi di sicurezza francesi. La cosa è stata organizzata senz'altro dai greci, ma gode della consulenza, diciamo, di esperti francesi. Sono tante le domande che restano aperte. Dove è andato a finire Bruno Breguet? Che coerenza deve esserci fra mezzi e fini nella lotta per un cambio sociale? Fino a dove ci si può spingere? Credo che sia importante cercare di comprendere le ragioni dei militanti che negli anni hanno intrapreso la lotta armata. Mi riconosco nella non violenza, ma penso anche che sia più facile professarla quando le avversità e le ingiustizie del mondo non ci toccano direttamente. Il Mediterraneo è un cimitero. I campi profughi sono anche in Europa. Siamo in piena emergenza climatica. Il futuro non si prospetta migliore del passato. E il conflitto israelo-palestinese continua, più esasperato e disperato che mai. Non ho mai immaginato di poter vivere una rivoluzione e men che meno di far parte di un'ipotetica lotta armata. Le uniche armi a disposizione per cercare di costruire un'utopia condivisa sono quelle sociali e culturali, ma è abbastanza chiaro che queste incidono davvero poco sulla realtà. E quindi rimane aperta la domanda: che cosa possiamo fare? Mi torna in mente una lettera di Bruno Breguet, ancora 22enne, scritta dal carcere, a un amico rimasto in Ticino. Vorrei dirti di non evitare la responsabilità di giudicare il mondo in cui vivi. Non considerare il mondo come dato. Un mondo che non hai fatto tu. E non cercare di vivere acriticamente. Non mettere la tua mente nel cassetto. Non conformarti all'ambiente facendo come tutti gli altri pensano debba essere fatto. E non agire in disaccordo alla tua ragione. Ciò sarebbe un crimine, una mostruosità. Per quelli che gli erano veramente vicini, deve essere stato un momento che occupa la loro vita, perché di solito i morti si mettono via e si lasciano andare. La sparizione mi ha fatto molto effetto. Ho pensato alle reazioni di sua madre, una donna così straordinaria. Il padre, che ho incontrato poco prima che morisse, mi ha riconosciuto e era contento di parlare di Bruno e mi ha detto: ma sai, Bruno ha sofferto troppo nelle prigioni. Secondo me, quando ho capito che lo rimettevano dentro, si è buttato giù nel mare. Mi sono sentito in colpa per non aver parlato abbastanza con lui, per aver perso le occasioni. Mi sarei potuto far raccontare delle cose, magari non me l'avrebbe dette, ma... E poi mi sono pensato che lui abbia orchestrato una fuga per rendersi irreperibile con una doppia identità. Sapendo che era così capace a tranciare quei rapporti affettivi, non mi farebbe specie se lui abbia da solo intrapreso questa strada per vivere da qualche parte del mondo dove non c'è più né Carlos nel fronte popolare, nei ticinesi che lo considerano un mercenario. Se un giorno dovesse ricomparire, sarebbe una sorpresa, ma per me non più di quel tanto, ecco. Non credo, però non si può escludere niente. Non so, insomma è sparito e non se ne sa più niente. Purtroppo, e lascia un vuoto malgrado quello che si dice, si racconta su di lui. Ti manca un po'? Manca, sì. Sì, perché è una persona così cara, simpatica, allegra, spiritosa. Non posso farci niente, una piccolissima speranza io ce l'ho ancora. Di sentirlo al telefono, ciao Sommi. Di imparare qualche cosa è mantenuto. Va bene, no. Lui però ha detto di fare chiarezza. Fare io chiarezza, ho l'impressione sì. Che non fare è un chiarezza punto, è più fa chiarezza difficile. Su questa faccenda. È più difficile. Va bene, Olmo ha fatto il film. E, non so, io non ti faccio domande. Cioè, ti chiederei perché. Ti chiederei da dove nasce questa... Questa cosa perché tu sei una generazione dopo, sostanzialmente. Racconti questa cosa da una... Sì, allora io volevo solamente dire anche che c'è in sala, oltre a Francesca, che magari poi ci racconterà qualcosa, anche Claudia Ribi, che è una delle protagoniste del film, che ha conosciuto bene Bruno e anche Giorgio. Infatti Dico solo questa cosa, uno degli ultimi ricordi di Giorgio che ho era proprio di una cena a casa di Claudia, prima di una proiezione. Siamo stati a casa sua a mangiare patate e formaggio, una cena che è stata molto bella e che mi ricordo con grande piacere. Però tu mi chiedi perché fare questo film. Allora, io ho scoperto dell'esistenza della vicenda di Bruno Breguet una decina di anni fa, quando i tipi di Red Star Press, questa casa editrice militante romana, hanno deciso di ripubblicare i diari. I diari erano stati stampati negli anni Ottanta dalla pietra ed erano quasi introvabili. E a Bellinzona hanno organizzato una presentazione di questo libro e a questa presentazione hanno partecipato tante persone che conoscevano Bruno, compagni di lotta, amici, parenti, ed è stato un momento molto emozionante. E lì io mi sono reso conto che non sapevo assolutamente niente di questa storia, non avevo neppure mai sentito nominare Bruno Breguet. E voi dovete immaginare che il Canton Ticino è meno di un quartiere di Milano, siamo in pochi, ci conosciamo tutti, e quindi che questa storia fosse stata dimenticata mi è sembrata veramente una cosa strana. E allora lì ho iniziato e ho avuto voglia di saperne di più e cercare di capire qualcosa in più di questa storia. E poi forse mi sono chiesto, chissà che effetto fa questo film in un posto come il Conchetta, in un posto come questo dove ci sono delle persone molto militanti e che probabilmente hanno già in chiaro tutta la faccenda. Il mio tentativo è stato quello di parlare invece a tutta quella che era una generazione di persone magari anche militanti, attivi, però che erano molto lontani da questa storia. Quindi perdonerete forse anche dei momenti un po' didattici o degli spazi che mi sono preso per raccontare delle cose forse risapute, ma che secondo me erano importanti per cercare di capire e contestualizzare quel periodo. No, però io direi, tu non sapevi nulla, va bene, hai visto il libro, però poi ti sei guardato intorno e hai trovato degli amici, cioè hai trovato qualcuno che qualcosa sapeva, no? Perché c'è un sapere su alcune cose di cui in realtà non si parla più. Cioè tu hai fatto questo, però poi ti sei trovato in un contesto invece, certo, che aveva una vitalità sua, una memoria storica sua. Sì, infatti quando poi ho iniziato a guardarmi attorno è stato tutto sommato abbastanza facile rintracciare le tante delle persone che Bruno lo avevano conosciuto. Ed erano tutte persone che in fondo facevano, a parte forse Marina Berta che ho conosciuto in quell'occasione, che già facevano parte della mia rete della mia rete sociale, la mia rete di conoscenze. Gigi Galli è stato il mio docente di sociologia, Giorgio lo conoscevamo soprattutto per l'attività al centro sociale Il Molino, Claudia condividevamo e condividiamo ancora un progetto di agricoltura biologica sul piano di Magadino, quindi erano tutte persone che già in qualche modo conoscevo. E poi abbastanza in fretta, perché voi vedete nel film 4-5 persone che raccontano di Bruno, però ne ho sentite veramente tante di più, perché la ricerca si è un po' allargata a macchia d'olio. Ogni volta che incontravo qualcuno mi diceva: ah, però forse senti anche lei e lui che possono raccontarti qualcosa. E quindi è stato un po' un lavoro quasi archeologico, perché nessuno conosceva completamente in toto la storia di Bruno Breguet. Ognuno aveva una visione da un punto di vista su un periodo della sua vita, su un pezzetto della sua biografia, quindi è stato necessario mettere assieme i pezzi del puzzle e ricomporli in qualche modo. Beh, questo può essere forse per la storia sua, no? Per il modo suo di... Però questi, diciamo, i pezzi del puzzle, del contorno, invece costituiscono una storia che è la storia di quegli anni, che è grossa, no? All'interno di cui si muove. Cioè queste persone che tu hai incontrato, in realtà tra loro in relazione in qualche modo sono. Cioè c'è un tessuto all'interno del quale questa vicenda avviene. Certo, c'è un tessuto e forse spesso non ci si immagina che anche in Svizzera, che anche in Svizzera italiana ci sia un humus, una rete di quel tipo lì. Ci si immagina sempre un po' che la Svizzera è separata, è fuori da un certo tipo di dinamiche, e invece andando a scavare si capisce che c'eravamo dentro in pieno. Ed è vero che c'è un mondo di persone che sanno, che conoscono. Ho l'impressione che ci sia stato poco passaggio fra le generazioni, che la mia generazione non ha mai o raramente ha sentito raccontare in maniera dettagliata di quegli anni, soprattutto nella complessità di quel periodo, di quelle lotte che erano portate avanti. E quindi almeno a me è stato utile per me fare questo lavoro, mi ha aiutato a anche inserire le cose che facevo io, che abbiamo fatto noi attualmente, in una specie di timeline, renderci conto che c'è che le lotte sono collegate, c'è un fil rouge che parte, se devo pensare al Ticino, forse dal Monte Verità, dagli anarchici, e passa attraverso gli anni fino agli anni 60, agli anni 70, le lotte degli anni 80 a Zurigo, e arriva fino a noi. E questo in qualche modo mi ha un po' fatto bene anche pensare di potermi raccontare, immaginare all'interno di un percorso storico, sì, collettivo. Sì, sì, sì. Un fil rouge è difficile da ricostruire, però, perché appunto ci sono gli omissis e le parti, certo, nascoste sono diverse. Però io credo importantissimo, come lavoro di ricerca e riproposizione di alcune di queste questioni effettivamente molto poco conosciute. Non so se Francesca vuole dire, perché invece lei la sa da prima sta storia. No. Però se dovresti venire qua, sì, o riporti. No, io trovo che cioè che viene fuori dal film Olmo, forse te l'avevo già, cioè questa una tragedia per me di più di tipo shakespeariano, di questo destino di Bruno, no? Che io ho conosciuto poco, qualche volta col Gigi Galli, che è un amico invece, che aveva questa passione, come dire, anche lui per questo destino personale, ma a un certo punto si chiede perché non ha fatto qualcosa di più. Questa è anche l'impotenza degli amici attorno, no? A cambiare, nessuno condivideva le sue scelte, però nessuno ha voluto, se l'è sentita, forse per rispetto, eccetera, e nessuno è riuscito a fermare quello che è un destino tragico, no? Perché c'è anche, da qualche parte c'è una morte annunciata, perché che sia andata così in modo misterioso e particolare, però poteva morire in un attentato, poteva morire in una prigione, eccetera. È veramente una tragedia. Io ci vedo più l'interesse di questo, di questa dimensione, appunto, da tragedia antica, da tragedia greca, eccetera, più che un interesse veramente sociopolitico. Poi tu, l'altro aspetto che mi piace del film è che sono le domande che pone Olmo. Allora io penso, però, questa domanda che tu poni alla fine sulla violenza, penso che bisognerebbe uscire dal dualismo, violenza sì, violenza no. La violenza fa parte della natura umana, fa parte dello sviluppo embriologico, precede la razionalità e la giustizia, e il problema è cosa facciamo, perché cioè negarla poi a volte vuol dire che poi viene fuori in un modo incontrollato e distruttivo, no? Invece come facciamo per trasformare questa violenza in forza, perché abbiamo bisogno di questo impulso violento che abbiamo inconscio probabilmente per dare forza ai nostri desideri, altrimenti c'è la rinuncia, no? Come facciamo a trasformare la violenza invece in una forza costruttiva? Questo è il vero problema, e quindi tutte le varianti che ci possono essere, no? Allora, appunto, io adesso torno su quello che conosco, no? Che è Giorgio, che ho trovato che non stesse così bene in questo film, perché lui conosceva di fatto molto poco, e ti confiderò una cosa, molto poco il Bruno Breghe. Allora diceva, va, non so, io non lo conosco, che dico, ma scusa, allora perché lo fai? Perché aveva un po' quel ricordo dell'MGP. E poi lui mi ha detto, no, ma lo faccio perché l'Olmo me l'ha chiesto, lui aveva stima di te, no? E voleva aiutarti, però per finire, siccome è lì un po' che non ha un vero ruolo, trovo che la sua figura viene un po' trasformata, perché invece sarebbe interessante interrogare, cioè mettere in prospettiva, lui ha nel movimento di Zurigo con questo suo gruppo sviluppato un tipo per esempio di violenza, diciamo che per me il filo conduttore di Giorgio, su cui mi sono interrogata qual è il suo filo conduttore della sua vita dopo la sua morte, perché ci sono tante parti che sono un po' separate, no? Perché lui non metteva in comunicazione, per cui gli zurighesi, sono stata a una commemorazione di Zurigo, loro vedevano solo la storia di Zurigo, non sapevano niente anche di prima, della storia del rapporto appunto con la classe operaia, eccetera, quindi con le origini dell'operaismo italiano, e non sapevano del suo lavoro, che sono 30 anni di lavoro sulla ricerca delle strade, no? E per me il filo conduttore che ho trovato è proprio questo di costruire dei luoghi che sono dei luoghi di vita per il cambiamento, perché il cambiamento possa essere in atto nella vita, i luoghi molto diversi, ma che hanno quella costante lì. E in fondo le strade c'entrano con questo, perché sono luoghi per il movimento, per imboccare delle strade, no? E lo studio delle strade è stato molto importante. Poi c'è questo passaggio in fondo nella vita di Giorgio, che ha sempre avuto questo lato molto costruttivo, dall'Ecolibro alle case occupate, che poi sono diventate una cooperativa che ha ristrutturato case, ne ha costruite delle altre, e in collaborazione con le autorità cittadine di Zurigo, che è una città interessante come dinamiche, c'ha da ormai tantissimi anni, non so più quanti, una giunta rosso-verde che è interessante come meccanismi che mette in moto, e sono ancora lì su questo posto. C'è la commemorazione di Giorgio, l'abbiamo fatta dentro questo quartiere della cooperativa d'abitazione, in una sala che poi hanno detto che Giorgio ha voluto, che ha insistito perché ci fosse uno spazio collettivo. Poi c'è stata la caserma occupata della Kanzlei, che era diventata un grosso centro socioculturale, poi anche lì negli anni si è trasformata, perché rimane uno spazio dedicato alla cultura. Adesso dico le cose più importanti. Poi sono stati 30 anni di studio delle vie storiche, fino alla costruzione delle strade carrabili, dove si è proprio applicato alla nascita stessa del concetto di strada, no? Lavorando in questa, siccome in Europa questo lavoro è avvenuto grazie a Napoleone, lui ha lavorato tantissimo in questa biblioteca dei Ponts et Chaussées vicino a Parigi, sulla ricerca fondamentale, no? Aprendo col coltellino svizzero libri ancora vergini, che avevano ancora le pagine attaccate assieme del 700, dell'800, eccetera. Quindi, e poi appunto, poi è passato attraverso il Bar Collando, che era una specie di bar mobile che andava nelle feste alternative, così super specializzato nei cocktail. E poi vabbè, la bottega di Gandria, che non è una bottega nel senso medievale, che è anche luogo di arte, di cura e di reinserimento sociale, e per sviluppare le filiere corte, certo, e per proteggere il territorio, è come un hub a 360 gradi, un epicentro per la comunità. Allora, tutto questo, però nel movimento di Zurigo dell'80, a Zurigo c'è stato, cioè abbiamo qualche immagine che Olmo ha messo, questa esplosione di un movimento metropolitano, che ricorda un po' il movimento degli indiani metropolitani, che aveva una caratteristica molto dissacratoria e molto ironica, no? Con un grosso lavoro anche sui media, che venivano, come si dice, dei tournée stravolti, no? Per cui andavano, c'erano delle frasi, sto parlando troppo a lungo, scusa. Ho sentito chiamare Francesca, non so. E questo, appunto, l'interruzione del telegiornale, per esempio in sostegno di Giorgio, è un esempio tipico di questo. E lì sarà sviluppato anche in margine del, e arrivo finalmente dunque dopo una lunghissima parentesi, in margine al movimento antinucleare, che è stato molto forte nella seconda metà degli anni 70, si sviluppa questo, un gruppo quasi specializzato, quasi tecnico, di concezione e esecuzione, sono le stesse persone che concepiscono e eseguono, di sabotaggi, no? C'è un po' veramente la riferenza, anche il riferimento ai movimenti americani, no? Dagli ultimi, i Weather Underground, eccetera, è proprio sabotaggio in questo. E fanno questi sabotaggi che, secondo Giorgio, io non ho gli elementi, sono quelli che hanno fatto decidere la non costruzione della centrale, perché quando il movimento non ce la faceva, loro sono venuti per dare il tocco di più con questa distruzione del padiglione che presentava il progetto, e da lì poi le autorità hanno deciso di rinunciare. Quindi è proprio, però lui ci teneva molto a dire che quella non era lotta armata, anzi diceva che erano azioni pubblicitarie per il movimento, no? E in questo devo dire, Giorgio era molto in chiaro, e questi incontri con Carlos è un po', cioè lui è entrato in un modo, un incontro casuale che è avvenuto. Sembra strano, ma nell'ambito della trattativa del Partito delle Colombe per portare a lieto, a uno sbocco positivo, il sequestro di Aldo Moro. Era una cosa un po' surreale. C'era un colonnello dei carabinieri in stanza a Beirut aveva deciso, era tra gli ultimi giorni, voleva fare un ultimo tentativo per contattare le Brigate Rosse, ma non sapeva come fare. Allora ha chiesto ai palestinesi, aveva dei contatti con palestinesi, ha chiesto ai palestinesi. I palestinesi, non so, avranno allertato molti settori, ma hanno chiesto anche a Carlos. Carlos aveva delle relazioni a Zurigo, perché comunque ci sono stati due avvocati che sono legati a Vergès, eccetera, e che hanno poi anche avuto Bosonnet, era Gambert e poi Bosonnet. Bosonnet è stato anche nel collegio di difesa di Carlos. Quindi c'era in un'area a Zurigo comunque di simpatia anche per la RAF, per i palestinesi, eccetera. C'erano dei militanti, diciamo, più vicini a quell'ambiente, e loro qualcuno di loro ha avuto l'idea di chiedere a Giorgio, perché era una persona del movimento in vista e che si sapeva che aveva rapporti con l'Italia. Quindi lui aveva contattato l'agente di Potere Operaio per poi appunto arrivare, però è successa troppo tardi. Allora cosa succedeva? quel rapporto lì con Carlos, già che c'era, Giorgio, quello che poi ha dichiarato quando questa cosa è apparsa, è che a lui interessava approfondire, capire qualcosa di più, ma anche perché a lui interessava fare una critica del lottamarmatismo del partito armato nell'ambito del movimento di Zurigo, perché lo considerava piuttosto un pericolo per il movimento. E poi in più cosa ha fatto? Ha pensato che forse Carlos poteva fornire dei materiali per il movimento antinucleare, quindi cioè, in qualche modo è stato, non come la signora del Ponte pensava, che Carlos ha arruolato Giorgio, è stato Giorgio che ha cercato di trarre profitto per il movimento da questo scambio. Poi ci sono stati alcuni incontri, poi è finita lì, però c'è stato veramente una sorta, credo, io non sono esperta tecnicamente, una sorta di missili che sono arrivati e sono stati usati dal movimento antinucleare di Ginevra. Ecco perché, per esempio, ci sono stati due ginevrini che hanno incontrato Carlos, che erano anche loro molto legati al movimento. Credo che, anche da quel che dice lì, non ho mai parlato con lei, lo farò, che per la Marina ha conosciuto Carlos per vie diverse, non erano legati, tra l'altro in quel periodo lì, che era quindi il 79, Giorgio stava con la Elena Jegli, che è già era in pianta, purtroppo è già deceduta vari anni fa, ed era una delle protagoniste dell'interruzione del telegiornale. E poi subito dopo, insomma più o meno in quel periodo, poi è stato con la Catherine Plus, che è la montatrice del film, per dire che insomma, non so più, ho detto questo per arrivare a qualcosa, ma non mi sono persa per strada. Comunque, tornando a questo gruppetto di sabotatori, era un gruppetto quasi professionalizzato, no? Questo è una forma, no? Una forma, io non sono piuttosto come te, più verso forme ancora più pacifiche, però mi sembra che è quel principio teorico da tenere presente, è quello lì, che la violenza c'è, bisogna usarla in positivo. Comunque penso che anche Giorgio sia andato sempre più verso la costruzione, negli anni successivi appunto lo studio e poi questo tentativo di costruire questo epicentro della bottega, è una cosa proprio per mettersi completamente in una dinamica, diciamo, costruttiva. Sì, in questa cosa che abbiamo fatto assieme rispetto al territorio, a Gandria, alla salvaguardia anche del patrimonio paesaggistico, culturale, architettonico, culinario, tutto, abbiamo trovato poi di nuovo un fondamento teorico di quello che abbiamo fatto, di nuovo in una persona che scaturisce dall'operaismo e del lavoro teorico che ha fatto Alberto Magnaghi, che per me è stato straordinario. Ho passato dei mesi immersa nei suoi libri, dicevo, ah, ecco, finalmente capisco quel che stiamo facendo, su cui ogni tanto non trovavamo delle parole, no, per metterle. Questo adesso sono andata un po' a Vanvera e ho dimenticato veramente dove volevo andare a parare, però scusate, sono ormai sempre più svampita. Adesso mi sono ricordata, ecco, quello che mi ha posto adesso te lo ridò subito, è un tema teorico che ha posto la lettura di Alberto Magnaghi, è questo passaggio dalla coscienza di classe alla coscienza di luogo, in quanto questo processo in cui andiamo di perdita appunto della vita, della biodiversità, eccetera, è in fondo una perdita di rapporto con la terra e con i luoghi, no? E che oggi sia questo uno degli obiettivi di ricostruire una coscienza di luogo, una domanda in più, aggiungo alle tante di Olmo. No, allora io volevo fare solo intanto ringraziare Olmo, perché io non conoscevo assolutamente la storia di Bruno Breguet e non avevo mai sentito parlare, per cui questo film sicuramente mi ha dato l'opportunità di conoscere questa storia. E di questa storia la cosa che mi colpisce è come lui, in un momento storico così collettivo, così forte, di movimenti plurali, abbia fatto una scelta come singolo e da solo abbia affrontato tutta poi la sua storia, che poi forse è stato anche il suo punto poi di debolezza, non essere... niente, questo... mi colpisce molto. Grazie. Beh, non so bene cosa dire dopo queste tante parole anche di Francesca, però forse questo si collega con l'inizio del discorso di Francesca, la tragedia dell'esistenza di Bruno Breguet è forse anche data da questa solitudine. In fondo tutte le altre persone presenti nel documentario hanno portato avanti delle lotte che avevano una dimensione collettiva e quindi ci si salva più facilmente, meglio se si sta assieme. Lui era spesso solo nel dover prendere le decisioni, nel fare, nel portare avanti la sua lotta, e quindi sì, anche a me impressiona molto e sento la componente della tragedia che citava Francesca sicuramente. Sì, se posso, no, poi non voglio. In realtà, diciamo, più per quanto mi riguarda a me, più che la storia o le ragioni individuali di Bruno, no, su cui nessuno potrà arrivare, quello che secondo me c'è di molto grosso nel film e anche nelle parole di Francesca è la storia, per l'appunto, del contorno. Cioè, perché lui intanto svela o ricostruisce, tu attraverso la storia della sua vita vedi e ricostruisci un tessuto di relazioni, rapporti, movimenti che hanno costituito una parte grossa della storia di quegli anni là. È inutile negarla questa roba, cioè non è che si può dire che erano una meteora che si muoveva in un modo casuale, c'era qualche cosa per forza. Ed anche devo dire, nel film io ho grandissimamente apprezzato questi amici che tu hai incontrato, quelli che hai poi intervistato, riportato, quelli di cui hai dato poi una cosa, che hanno conservato l'amicizia, hanno tenuto, no? Cioè, come dire, raccontano una solidità politica, emotiva, relazionale, grossa, no? Cioè, non che uno dice, vabbè, è andata così, no? È buono. E questo secondo me conta nella ricostruzione, proprio anche nella ricostruzione della memoria, sapere che queste cose ci sono, cioè è ciò che le rende diverse da una cronaca giornalistica in cui tu vieni riportato al singolo evento, bene o male raccontato più o meno fedelmente, ma che è quella roba là per cui tu dici sono d'accordo, cioè è una storia, come dire, di complicata vita, ecco. Io poi non vorrei dare giudizi, non mi pare, non sono in grado, io non posso, non mi sento, non so, cioè non compete, non mi compete. Però è quello che tu racconti, così come le parole sue, testimoniano una storia viva e forte, attorno, durante, in mezzo, in cui questa roba ci va. Una storia che, insomma, in parte a noi è negata, perché noi invece un pochino nella narrazione della riproduzione delle cose siamo schiacciati sul cronachismo, ecco, sull'evento, sul cronachismo. Per cui io penso che si deve avere una buona gratitudine su questa tua produzione bella. Basta, io non ho niente altro da dire. Cioè, volevo chiederti, tu che hai costruito questa cosa, Secondo te quali sono i motivi, almeno in Svizzera diciamo, i motivi per cui queste storie sono cadute nell'oblio? A parte il discorso che non so, il movimento che è stato sconfitto oppure altre cose, però il tuo punto di vista, secondo te perché questa storia, cioè questa, queste storie sono finite nell'oblio? E vabbè, grazie a te, ovviamente le conosciamo anche qui, però. Grazie. Ma ho un po' l'impressione che in qualche modo si cerchi di tenere, di sorvegliare il tipo di narrativa che si ha del nostro paese. Si cerca sempre di raccontare la Svizzera come un paese non toccato dai conflitti, dove non c'è violenza politica, non c'è violenza sociale. E fa parte un po' di un immaginario costruito ad arte, come per esigenze legate probabilmente alla stabilità economica, quindi immaginarci che la Svizzera è un buon posto dove portare i soldi, dove passare le vacanze, fa parte proprio della costruzione di un immaginario in cui tutte queste storie non trovano spazio, non trovano cittadinanza, sì. C'è uno dei testi che sono serviti per fare questo film è di Carol Filliger, che lei lavora proprio sul modo in cui la violenza politica è stata rappresentata nei vari periodi di storia svizzera, e questo lo si vede abbastanza chiaramente non solo per quello che riguarda gli anni 60, 70, 80, ma già prima, nel senso che si cerca di evitare di associare la Svizzera a tutto quello che può disturbare, in qualche modo perturbare. Però c'è un dato reale che sono stati parecchi decenni di effettiva pace del lavoro, cioè c'è un sindacato che ha costruito questo accordo con l'industria, e quindi questo era un dato di fatto anche che ha servito da base. Adesso, vabbè, appunto, come si vedrà col film del Semir, non c'è più quella cosa lì, è durata fino appunto agli anni 70, però dietro dal dopoguerra fino lì c'è stata questa, cioè i sindacati non entravano in sciopero, no? Non entravano, quindi quei rarissimi scioperi selvaggi erano fuori da qualsiasi struttura. Questo è stato un fondamento anche di realtà che ha sostenuto questa immagine. Dopo cioè, è solo un complemento, è quello che dicevi tu è verissimo, lo condivido. Bene. Va bene. Grazie. Nessuno da dire, allora chiudiamo. Grazie mille a tutti voi che siete venuti, il lavoro che avete fatto, eccetera. Invitiamo chi è qua di Milano lunedì prossimo per la puntata sul proletariato svizzero, il film di Samir che verrà, e adesso beviamo. E va bene, vi invitiamo a un brindisi in ricordo di Primo, di Giorgio, lo estendiamo bene, l'occasione è stata molto bella per me, grazie a tutti. Grazie mille.